Bene, buongiorno. Buongiorno anche da parte mia. Sono felice di vedervi di nuovo pimpanti. Oggi è la domenica speciale, no? Abbiamo letto su Facebook, c'è la fiera del crocifisso, ma a noi ci riguarda ben poco perché noi siamo la fiera del vivente. Vi piace? Eh? Vabbè, un applauso anche a Gesù va bene, perché lui è vivente, non è un crocifisso. E quindi è bello che possiamo stare qui e celebrare. Grazie per aver preso il tempo anche di venire domenica mattina, sempre un semplicissimo, però voi siete la parte più forte della Chiesa, più coraggiosa. Io vi stimo tanto e anche Noemi vi stima tanto con me, perché sa che cosa vuol dire, no? Giusto. Bene, io andrei subito a condividere con voi questo passaggio della Bibbia. Da qualche settimana io sono bloccato, come vi ho detto la volta scorsa, su un passaggio di Matteo 6, che è la preghiera che Gesù fa, no? Che noi conosciamo meglio come Padre nostro. Quando diciamo Padre nostro è per un retaggio religioso, però è la preghiera di Gesù. Quindi siccome ormai la conosciamo così, quindi già la ripetiamo come un dato di fatto, Padre nostro, ma va bene comunque. È una preghiera importante perché ha di fatto cambiato la storia anche della nostra vita cristiana, dei secoli di vita cristiana. Da sempre questa preghiera diventa un modello, non solo, ma secondo me è una preghiera che ha una profondità pazzesca perché ogni volta che tu la leggi capisci una cosa nuova. Perché qui, non so se avete colto la questione, ma è Gesù che prega il Padre. Capite? Qui c'è un'intimità di Dio e noi andiamo a vedere come parla Dio, come vive questa comunione, come c'è relazione e come noi possiamo prendere questo a modello per noi, per avere una buona relazione con Dio e comprendere intimamente, conoscere di più. Cosa Gesù si aspetta? Come vuole che noi parliamo con Lui? Come spendiamo tempo con Lui? C'è molta, molta, molta intimità in questa preghiera. Se la volta scorsa, ricordate, abbiamo parlato del perdono. Rimetti a noi i nostri. Posso sentire un po' anche la vostra voce, così mi incoraggia. Non, ok, non siete un'immagine proiettata. Che bello, ok, interagite, wow, forte. Rimettono i nostri debiti, abbiamo visto che profondità avesse quel significato. Oggi mi sono fermato e vorrei condividere con voi su questa parte del Padre nostro che è il verso 10 di Matteo 6 che dice, venga il tuo regno. Venga il tuo regno e è una frase pazzesca. Io non ho pretese di spiegarvi tutto quello che c'è dietro questa frase perché non basterebbe sicuramente il tempo di questa mattina, ma sicuramente ci sono libri e libri molto scritti bene che possono aiutarvi a comprendere di più il significato di questa frase ed è così profonda. Io voglio spiegarvi un po' anche quello che ho capito io, quindi senza nessuna pretesa facciamo un bel viaggio insieme. Siete pronti con me? Ok, dai, ci proviamo. Venga il tuo regno. Io mi sono fermato un po' a pensare, ma quando Dio ha creato il mondo e ha costituito l'universo e ha pensato, ok, l'idea che io voglio per l'uomo, l'idea che voglio per l'umanità è che abbia un posto fantastico dove vivere, che sia in comunione con me, che sia in comunione con il mondo, che sia in comunione con le persone intorno a lui, a cominciare da sua moglie. Questo era il principio e l'idea che Dio aveva per l'umanità. Dio aveva l'idea di un giardino. E come siamo arrivati al regno? Proviamoci, proviamoci un po' a pensare. Sapete che poi questa storia del giardino non è durata tanto, insomma, c'è stato un po' un problema interno e la disobbedienza, il peccato ha rotto quella situazione idilliaca, quel momento in cui tutto era perfetto e l'uomo ha dovuto lasciare quel posto abbandonare l'idea che Dio aveva di quella perfezione, di quella idea migliore di vita possibile. Adamo, conosciamo la storia, poi è andato via dal giardino dell'Eden e poi in discendenza di Adamo abbiamo anche persone che sono state chiamate da Dio a, per provare di recuperare, ok? Dio ti recupera sempre. Dio voleva recuperare e ha detto, ok, Abramo, senti, io in te voglio costituire una generazione, un popolo santo, un popolo che io voglio appartare, ok? E voi sapete bene, non ve lo anticipo, ma insomma potete immaginare a cosa mi sto riferendo. Se Dio ha chiamato Abramo, e nella discendenza di Abramo ci siamo anche noi, ok? Quando Dio ha fatto questa promessa era per ristabilire un sano principio di quello che era l'ideale di umanità che Dio aveva pensato. Poi sappiamo che in Abramo sono nate generazioni e generazioni e Dio è diventato il capo del popolo che è nato da, questa, da quest'uomo, no? Israele. Dio è diventato il leader, la guida di questo popolo. Ed era pazzesco, perché non c'è mai stato nella storia un popolo che fosse guidato direttamente da Dio. Tutti avevano un leader, c'avevano il faraone, c'era l'imperatore, c'era il capo sumero, insomma, conoscete forse meglio di me la storia. Ma era pazzesco, cioè, non so se ci rendiamo conto, era pazzesco. Questo popolo si muoveva in giro per il mondo, ne ha passate tante, devo dire. Era in giro lì in Egitto, deportato, tutto quello che conosciamo bene, e aveva una guida ed era Dio. E Dio si serviva di persone che guidavano il popolo, ma nessuno ha detto Mosè sei il presidente di Israele. No, Dio è sempre stato riconosciuto capo e guida del popolo. Pazzesco. La questione era che questa situazione creava fortemente imbarazzo. E ogni volta che dovevano confrontarsi con altri popoli, voi immaginatevi se per assurdo ci fosse stato l'ONU a quel tempo e tutti i delegati andavano alle riunioni dell'ONU, delle Nazioni Unite e dicevano, ok, dov'è il vostro leader? Ma sai, noi abbiamo Dio. Ok, dov'è? Chi partecipa? Chi parla per il vostro popolo? Dio parla al nostro popolo. Ok. Quindi era proprio imbarazzante, non sapevano chi presentare, chi portare a dire ok, questo è il nostro re. E sapete cosa è successo? Che la testa dura di noi esseri umani ha creato quest'idea ed è andata così. Il tempo è passato, come potete immaginare, conoscete bene, siamo nel tempo dei giudici, Samuele era profeta e guida del capo del popolo di Israele, e la gente va da Samuele e dice, Samuele, qui noi vogliamo un re, perché facciamo brutte figure. Ogni volta che dobbiamo andare, ci chiedono, dove sta il tuo re? Non lo so, non c'è il mio re. Ok, chi è il tuo re? Non lo so, dacci un re! Ok. E lì succede una cosa abbastanza imbarazzante, perché Samuele si trova di fronte a tutto il popolo e dice, ok, volete un re? Leggiamo il verso, per favore, di secondo Samuele, c'è? No? Vai, Laia, sei bravissima. Ok, non è questo, lascia perdere. Vanno da Samuele e dice, ok, ascolta, noi vogliamo un re, e succede che Samuele dice, va bene, facciamo così, noi vi daremo un re. Prega il Signore, dice, Signore, che dobbiamo fare? Diamo un re a questo popolo. E viene unto Saul, e poi via dicendo, e Davide, e poi altri re. Insomma, inizia una dinastia, un impero, come tutti i regni, un macello, gente che si scannava e si uccideva per il trono, era un macello, perché alla fine si è anche diviso il regno, però nonostante tutto questo Dio stava recuperando. E sapete, in questa, nella storia di Israele, nella storia del regno di Israele, c'è un re che diventa un esempio per la dinastia di questa storia. Perché? Se in altri imperi, no, ci ricordiamo bene di Giulio Cesare o altri re, eccetera, per il regno di Israele noi abbiamo un re di riferimento, che conosciamo tutti, ed è il re Davide. E il re Davide è stato un re, è anche scritto secondo il cuore di Dio. Ok? Forse il re che più si è avvicinato all'idea che Dio voleva poter recuperare come idea di regno, ma in ogni caso Davide è stato un buon re. E in quell'uomo Dio ha creato una discendenza santa. E se andiamo indietro, anche Davide è discendente chiaramente di Abramo. E Abramo era colui che aveva ricevuto la promessa di un popolo eletto, di una gente santa. Leggiamo il verso di Secondo Samuele questa volta, ed è Samuele, no scusate, non è, è Nathan che va da Davide e dice: Davide, tu stai per morire, ormai siamo alla fine dei tuoi giorni, e succede questo. Secondo Samuele, qualcuno cadrà oggi dalla regia se non mettete il verso. Secondo Samuele 7,16, la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Nathan dice al re Davide, quando poco, da lì a poco sarebbe andato e sarebbe morto: il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Io, sta dicendo Dio, costituirò un regno e che discenderà direttamente da te. Oggi è il 2015 e qui sul territorio di Israele non c'è nessun re. È vero, ma non è proprio così. Perché in Davide Dio aveva stabilito realmente una discendenza, e se la storia va avanti e il regno si divide, il regno di Israele è così, come tutti gli altri regni della terra, un gran macello. A un certo punto Dio inizia a ristabilire l'idea che aveva nella sua testa di regno, di ristabilire un piano perfetto per l'umanità. E qui infatti entriamo un po' in conflitto, perché è vero, qui non c'è un re di Israele oggi, no? Però Dio aveva ripensato e ristabilito e ricondizionato l'idea che aveva riguardo al piano per l'umanità. E quindi arriva Gesù. Indovinate Gesù? Se leggete Matteo capitolo 1, c'è scritto che Gesù è figlio di Davide, no? Nel senso metaforico è della stirpe di Davide, perché Giuseppe, il suo padre adottivo, era della stirpe di Davide. Quindi viene, continua quella promessa, continua quella discendenza, continua quella benedizione, quella parola che non si ferma e va avanti senza alcun impedimento, perché quando Dio promette una cosa, Lui la fa. E quando Lui ha stabilito già dal giardino che avrebbe avuto un piano per l'uomo, Lui l'aveva veramente. Nonostante l'idea che l'uomo avesse di farsi un'altra idea di regno, di qualcosa che ha cambiato la storia e quindi ha ristabilito tutto un progetto che non era quello originale di Dio, Dio provvede un'alternativa. Dio provvede un piano diverso, un piano migliore. Dio aveva in mente un regno che non avrà mai fine. Dov'è questo regno? Gesù arriva nel mondo e inizia a predicare. Sapete qual è, che cosa predica Gesù? Il regno. E tutti si chiedevano: ma scusami, ma Gesù, non sei tu il figlio di Davide? Non sei il re che Dio ha promesso? Non sei quello che deve rimettere a posto le cose? E Gesù dice: il regno di Dio è vicino. Vabbè, Gesù, però qui le tasse continuiamo a pagarle. E i romani continuano a fare il bello e il cattivo tempo. Qui dobbiamo recuperare, qui dobbiamo riprendere l'idea del nostro re Davide. Conquistiamo di nuovo tutto. Dove sono le spade? E Gesù diceva: il regno di Dio è vicino. Ma questo regno di Dio, che cos'è? Il regno di Dio, veramente, che troviamo istituito da Gesù in poi, è un regno pazzesco. È un regno sottosopra, è un regno upside down, veramente. Perché non puoi immaginare Che idea aveva Dio di ristabilire questo regno? Ed è strano perché non è fatto di spada, non è fatto di riduzione di tasse, non è fatto di conquiste di territori. Che cos'è questo regno? Se leggi un po' nella Bibbia e vai a cercare un po', il regno di Dio è questo, non troverai mai questa frase, ma troverai sempre il regno di Dio è simile a. Il regno di Dio consiste in, ma non troverai mai una definizione di dire il regno di Dio è questo. Perché? E se leggiamo, e ce ne sono di passi in cui abbiamo avuto la possibilità di leggere, di capire riguardo a questo regno, che la definizione di regno è un po', sentite, un po' difficile da concretizzare, no? Io quando ero piccolo leggevo questa preghiera, venga il tuo regno, io mi immaginavo il castello della Disney, veramente, pensavo che arriva a un certo punto dal cielo un castello in cui Dio regna. Non è molto diverso, ma ci arriviamo. Venga il tuo regno. È Gesù che continua a dire, il regno di Dio è simile a un seme caduto nella terra e porta frutto. Il regno di Dio è fatto di persone che lasciano padre, madre, fratelli per amore. Il regno di Dio è simile a un cammello che non può passare per la cruna del lago, no? Del lago, sì. Il regno di Dio è fatto di persone che non hanno un occhio e non hanno una mano. Il regno di Dio è come i bambini. Quante storie ci sono riguardo a questo? Il regno di Dio è simile al figlio il prodigo, alla storia del figlio il prodigo. Il regno di Dio è una pecora smarrita, una moneta persa. Sapete, ogni volta che io leggo questo e rileggendole questi giorni, io mi sono accorto che Gesù stava parlando di te. E questo mi ha scioccato e mi ha così parlato forte al mio cuore. Dicevo, ok, è vero, quando io penso alla storia del seme buttato in un terreno fertile, penso alla storia di Karen. E quando io penso che il regno di Dio è simile ai bambini che lo ricevono, e penso al pastore Pinuccio, che prima di essere un padre è un figlio semplice, che ha autorità, ma è un figlio. E io vedo la sua purezza, vedo il suo cuore, e dico, che bello, è così che Dio vorrebbe che io sia. Come un bambino, come il pastore ci mostra, che figlio. E quando io penso che il regno di Dio è simile a una tempesta che arriva e butta giù una casa costruita sulla sabbia, ma invece la casa che è costruita sulla roccia rimane, io penso alla storia di Clarissa. E quante storie ci sono? Io mi sono fatto questa convinzione. Quando Gesù parla di quelle parabole, siccome non ti poteva citare, ha usato una metafora. E invece di dire il tuo nome e cognome, perché non conoscevano il tuo nome e cognome 2000 anni fa, non eri ancora nato, ma Gesù ti vedeva nel futuro, lui dice, cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è la storia di Noemi. E racconta una storia, e racconta la sua storia, racconta la mia storia. Che bello! Luca 17 dice, il regno di Dio è qui. Il regno di Dio è qui, noi siamo il regno di Dio, la Chiesa è il regno di Dio. E non è un lavoro completo, mi rendo conto, ma è la Chiesa che ha iniziato questo processo pazzesco di istituire un regno. Voi siete, noi siamo il regno di Dio. Non è fantastico? E ogni volta che una persona accetta Gesù nel suo cuore, questo regno avanza, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Non è così. Gesù un giorno incontra Nicodemo e gli dice, senti Nicodemo, io lo so che tu vuoi avvicinarti per capire questo fatto del regno di Dio, ma il regno di Dio è fatto di persone che nascono di nuovo. Ed è vero, quando tu incontri Dio, questo incontro deve necessariamente cambiare la tua vita. Non rimani più lo stesso. Qualcosa di spirituale nella tua vita cambia, qualcosa di spirituale si rinnova, diventa una nuova vita. E tu salti nella proprietà del regno di Dio e diventi parte di Lui. È quel regno che non è fisico, fatto di spade, fatto di riduzione di tasse, è un regno che vive nel tuo cuore. Gesù è re. Quando ogni volta che dici Gesù è re, Lui regna nel tuo cuore, Lui è l'autorità sul tuo cuore, Lui regna, Lui regna. Il paradiso inizia quando tu accetti Gesù ed è la strada che ti porta fino alla fine. Ma se tu non vivi il regno di Dio, il paradiso qua, non lo vivrai neanche dopo. È dura da dire, però è così, perché tu vivi il regno di Dio qui, è già iniziato, è una bella notizia, sì? Non vogliamo fare un applauso a Gesù per ringraziare e dire, Signore, grazie perché Tu hai istituito il Tuo regno iniziando qui, è oggi, è pazzesco, è forte. E quando tu sei parte del regno di Dio si vede. Mamma mia se si vede. È come quando tu sei un fan di qualcosa, no? Voi lo sapete che io sono molto malato, ok, posso dirlo, malato, un po' appassionato di prodotti Apple. E non ve lo devo neanche dire perché voi lo sapete già. Perché quando io passo, la gente se non ha un iPhone se lo nasconde in tasca, non dice neanche la marca della concorrente, dice Samsung. Non lo dice, non lo dice, perché lo sanno che io sono pazzescamente appassionato di questi prodotti, perché mi piacciono, li compro, li uso, ci lavoro, sono il meglio che il mondo ci può offrire a livello tecnologico oggi. Ok. Questo vuol dire essere appassionati, no? Essere fan, no? Fanatici, fan è una parola, fanatici. E sei fanatico del regno di Dio, ti appassiona il regno di Dio, sei parte di questo, beh se sei parte di questo tu sei proprio un fan e lo vedono, non lo devi neanche dire, si sente, quando tu vai in giro, che quell'evangelista, e non dicono le parolacce quando ci sei tu e hanno tutti, è così, perché tu sanno che cosa tu ami. Sanno che qual è la tua passione, sanno che cosa hai nel cuore, perché quando tu parli si sente, quando tu dici qualcosa, quando tu ti muovi, quando tu ti atteggi, si vede che sei del regno di Dio. Tu sei del regno di Dio. E quando io devo pensare a che cosa vuol dire essere fanatici, io penso a questo video che vi voglio far vedere adesso. I guess that this video is going to be seen by a huge amount of people all over the world. But to be true, it's been conceived to be addressed just to 5 people. So Chris, Pat, Nate, Taylor, and Dave Grohl, the Foo Fighters. You know, Italy is a country where dreams cannot easily come true. but it's a land of passion and creativity. So what we did in here is just a huge, huge miracle. I've been working on this project for more than 1 year, waking up every morning thinking about how to make it real. And this is all that we got. 1,000 people, 1,000 rockers that came from all over the nation at their own expenses. And they just did for one song, your song. So our call is to ask you, the Foo Fighters, to come and play for us. Come and play in here, give a concert to all of us in Cesena. So what I'm asking right now to all the people around me is to just make some noise for the Foo Fighters. Come on. Come on, guys. Capito cosa è successo? Questi sono dei romagnoli, sono di Cesena, Cesena è un poco più grande di Modugno, e hanno detto, noi sono tutti fan, proprio ammiratori pazzeschi dei Foo Fighters. Se non sai chi è i Foo Fighters, non ti preoccupare, basta che sai chi è Gesù. I Foo Fighters sono una band pazzesca di Seattle, e loro hanno fatto dei dischi meravigliosi dagli anni 90 in poi. Questa canzone è una delle loro più famose, e questi ragazzi sono dei fan, sono venuti da tutta Italia e hanno deciso di fare questo appello: cantiamo in mille, suoniamo in mille e diciamo Foo Fighters venite a Cesena. È come dire Lady Gaga viene a suonare alla festa del crocifisso. Ed è pazzesco, non puoi pensare che sia reale, cioè non puoi dire vieni a suonare Foo Fighters qua, i fanatici si vedono, sono pazzi. Io quando ho visto questo video mi sono vergognato come credente, perché ma sono io così pazzo da mettermi ad urlare con tutta la chiesa, Gesù vieni! Che aspetti a venire? Dai, vieni che dobbiamo iniziare la festa, qui il regno è iniziato, io sono felice di averti nella mia vita, mi piace venire qua a celebrare, cantare, voglio, fanno questo, stanno adorando, io voglio saltare dal mio posto e dire Gesù vieni, dai che dobbiamo iniziare la festa. I fanatici si vedono, hanno un senso di appartenenza. Sì, hanno un'idea comune su cui lottare, combattere, svegliarsi la mattina e fare queste cose pazze. I fanatici sono più felici, perché quando suonano insieme, vanno insieme allo stadio, fanno delle cose in comune, rilasciano dopamina nel cervello, che ha detto la mia moglie, lei lo sa. Loro appartengono, si sentono parte, non si conoscono neanche, ma si sentono parte. Come funziona questa cosa? Perché amano quello che fanno, sentono di appartenere. C'è una domanda che io mi faccio e voglio farti questa mattina: a chi appartieni? In genere si dice, no, quando si conosce, se si presenta, a chi appartieni tu? Vabbè, giovane appartiene ai Lovino, no, che lo sappiamo, sono di Ruvo, vabbè, io li conosco. Ma io sono, per esempio, se vado in giro, sono in una conferenza, mi chiedono, ehi, da che chiesa vieni? E io dico, io sono della chiesa di Modugno. E sai, anche poi hanno tutti accenti strani, ti dicono, ah, sono dalla chiesa del pastore Ronchi. A me mi viene di dire, no, veramente sono nella chiesa di Gesù, perché la chiesa è sua, è il suo regno, e noi siamo così felici che abbiamo un pastore come il pastore Mirko, ed è bello, però con lui noi siamo coeredi di questo regno, noi non siamo neanche degli ammiratori, noi siamo figli. Gesù, quando ha detto a coloro che mi hanno ricevuto, dato il diritto di essere chiamati figli, siamo più che fan, siamo più che ammiratori. Ma di fatto Gesù, che non si aspetta ammiratori, vuole delle persone con Lui, che adorano Dio, che stiano con Lui, che vivano l'eternità con Lui, che passino il tempo con Lui. Questo è amore, questa è passione. Ok, se ti dicono sei un fanatico, sì, io vado con altre persone e canto. Mi piace la musica che fanno, anche se nel volume basso. Mi piace. È bello appartenersi, io voglio appartenere. Come facciamo? È facile, io non so qual è la tua condizione oggi, però a volte io non sto parlando solo dell'idea che tu abbia accettato Gesù, io lo so che qui ci sono tutti credenti, però tante volte io mi sento un po' in disparte su tante cose. Come mai? Come mai se io vengo in chiesa e dicono, no, questi mo alzano le mani, mo battono le mani, fanno questa musica, alzano il volume. Oh, questo è non è appartenersi, questo è stare ai margini. A chi appartieni? Ti senti parte di questo? A me mi metti in crisi, quando dico venga il tuo regno, sì va bene, venga il tuo regno, ma stai regnando in me, stai vivendo nella mia vita. Mi stai facendo battere il cuore quello che faccio se io mi alzo la mattina presto per venire qui di domenica, mi fa battere il cuore, mi fa appassionare. Leggevo ieri nel gruppo della chiesa che qualcuno scherzosamente si lamentava della durata dell'incontro che ci sarebbe stato il sabato sera. Oh, e come? Non vuoi stare con me? Non vuoi stare con le altre persone, ascoltare qualcosa che può cambiare il corso della tua vita, ma con Dio è un'avventura. Tu ti alzi la mattina e dici, Signore, dai, io voglio fare qualcosa per te. E lui dice, sì, ok, vai in Etiopia. A me è successo. Come fa? È così. Ecco il regno di Dio. La cosa bella è che non è finito, perché il regno di Dio si sta completando con una promessa grande che abbiamo già sentito oggi da Stefano nella conduzione. Il Signore è vicino. E se ora noi viviamo qualcosa di spirituale, è meno male che abbiamo iniziato così, che lo abbiamo, ci ha convinti, ci appartiene, siamo parte. E adesso che siamo in questa condizione spirituale, siamo pronti per ricevere il regno di Dio fisicamente. Ci credi? Sì. Gesù sta tornando. Gesù sta tornando e lui, io non vedo l'ora che questo regno inizi, anche fisicamente. E sapete chi sarà impegnato in questo regno? Tu ed io. Speriamo che non mi fanno fare il grafico. Non voglio fare. Quando questo video è stato messo su YouTube, ha fatto 26 milioni di visitatori. 1 milione li ho fatte io di visite. Ed è stato pazzesco, perché veramente un sacco di gente ha visto questo video, e anche David Grohl, che è il leader del gruppo Foo Fighters, l'ha visto e ha risposto. Vediamo che cosa ha detto. Sena, sono Davide, ciao. Mi dispiace, non parlo italiano. Solo un po', un po'. Questo video, ma che bello. Che bellissimo, grazie mille. Stiamo arrivando, prometto. Ci vediamo presto. Grazie mille. Ti amo. Ciao. Io quando ho visto questo video mi è venuto in mente il verso dell'Apocalisse, quando Gesù... Allora, voglio chiarire una cosa, David Grohl non è Gesù. Ok. Possiamo leggere il verso di Apocalisse, per favore, 22? Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Gesù dice io vengo presto, come in questo video, dice io vengo presto. Mercoledì David Grohl è venuto a Cesena, in questo paesino, alla faccia di tutte le macchine organizzatrici musicali e dell'industria discografica, ha lasciato il tour mondiale ed è andato a Cesena e ha fatto un concerto. Questo mercoledì, è vero, nessuno ci credeva, dice, ma sono impazziti tutti. È vero, è andato. E io ci credo che Gesù verrà. Perché quando noi siamo qua a urlare, Gesù vieni, venga il tuo regno, Gesù viene, il suo regno avanza, il suo regno è eterno. Vogliamo alzarci in piedi? vogliamo chiudere i nostri occhi e immaginare questo che sta per accadere e che è per noi, perché la promessa che Dio ha fatto a te e a me di cambiare la nostra vita, di cambiare il nostro destino, e se quello che Dio aveva in mente nel giardino oggi è vero, è in parte completo. Perché non è un regno fatto di eserciti o di spade o di armi. È un esercito fatto di cuori nuovi, in cui Dio personalmente viene a regnare nella tua vita. Se questo non è ancora per te, oggi Dio vuole parlare al tuo cuore e dire: ehi, dai, entra nel regno, io voglio che tu sei qui con me. E tutta la Chiesa, non solo a Modugno, in tutto il mondo, e oggi davvero, forse non lo sai, ma milioni di persone, centinaia di migliaia di persone, milioni sicuramente, sono centinaia di milioni di persone, sono insieme a noi in questo momento a celebrare Dio e a urlare: Gesù, ehi, vieni, vieni a fare musica con noi, vieni a stare con noi, noi vogliamo che tu regni in noi per sempre, vieni al regno. Signore, io non voglio più stare ai margini, ai lati di questa chiesa o sentirmi parte del tuo regno. Io voglio sentirmi parte di questo. Voglio che la gente riconosca in me che io sono parte di questo regno. Anche se mi dicono che sono pazzo, è vero, sì, sono pazzo e voglio che la gente riconosca che io appartengo a Dio e che Lui regna in me. E che da oggi in poi voglio prendere decisioni nel sentirmi parte in questo ed essere utile alla causa del regno e dire: Signore, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno, Gesù. Amen.